Mi disegno contro i tuoi tanti specchi, mi modifico con le mie vene, con i miei piedi, mi chiudo entro tutti i tuoi occhi.